il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Eric Cantona non è considerato il più grande calciatore di tutti i tempi, pur avendo vinto molto in carriera. Il suo palmarès non è da record. Eppure il calciatore francese classe 66, attaccante con la maglia numero 7, è rimasto e rimarrà nella storia del suo sport. Non solo per essere stato eletto nel 2001 dai tifosi del Manchester United, i suoi tifosi, calciatore del secolo. Un Manchester che annoverava gente come Best, come Bobby Charlton, come Beckham e Cristiano Ronaldo, ma anche per il suo carattere. È alto più di 1,90 m, ha le sopracciglia folte e poche parole. Cantona è stato capace di affermarsi nell'immaginario collettivo per i suoi atteggiamenti, per la sua grinta, spesso al confine con la spavalderia. Simbolo di un calcio senza scuse, maschio, come direbbe qualche commentatore sportivo. Un calcio ancora senza capelli tirati da un codino, senza pettinature sfoggiate a favore di telecamera, solo calcio e sudore. Cantona, nelle cui vene scorre anche sangue italiano, ha segnato la storia del calcio non solo coi suoi gol, ma anche per i gesti negativi da anti-eroe. E questa è una storia che non piacerà solo agli uomini, è una storia anche per le donne. I giocatori del Manchester stanno protestando con l'arbitro, ma cosa sta succedendo? Cantona si è lanciato su un tifoso con un calcio, è incredibile! Quello che avete sentito è un pezzo fondamentale della storia che stiamo per raccontarvi, ma di questo parleremo più avanti. Cominciamo dall'inizio e dal grande spettacolo del calcio. Eric Daniel Pierre Cantona, classe 66, nasce in un sobborgo della multietnica Marsiglia. Lì si conoscono i genitori di Eric. È un cocktail già esplosivo nella genetica, perché Albert, il padre, è di origini sarde, di Ozieri. La madre, Eleonor Rorik, o Rorik, è figlia di rifugiati catalani, quindi Catalogna. Molta fierezza in entrambi i genitori. Il nonno ha combattuto negli anni 30 contro i fascisti di Franco nella guerra civile spagnola e, internato in un campo di prigionia, si ferma a Marsiglia, un'altra città dove i caratteri particolari abbondano. Forse da queste radici già si spiega qualcosa del nostro protagonista, diciamo, di come sarà da grande. Lì Eric nasce e vive i suoi primi anni. Il padre ama il calcio e quindi gioca a livello amatoriale come portiere, porta spesso i suoi tre figli a vedere le partite dell'Olympique Marsiglia. In quella squadra ci sono giocatori molto importanti: lo svedese Roger Magnusson, che è il Garrincha di Svezia, il croato Skobla, che vince con il Marsiglia per 3 anni consecutivi la classifica dei cannonieri. Eric si appassiona alle gesta sportive, ma l'innamoramento è un'altra cosa. Per quello ci vuole qualcosa di più, ci vuole qualcuno che accenda la miccia della passione calcistica. Raccontano le biografie che quell'incontro fatale avviene allo stadio Velodrome, quando papà Albert porta i figli al cospetto del calcio totale, dell'Ajax di Johan Cruyff, del genio assoluto. Non è solo amore, è una premonizione, è così che vuole diventare da grande, è così che vuole giocare a pallone. Così si butta, tira i primi calci nel Caillolet, seguendo le orme del padre, in porta. Ma poi vuole giocare in attacco, gioca come ala. Va molto meglio, di lui si accorge un grande del passato, quel Celestin Tico Olivier, già nazionale francese ai mondiali di Svezia del 58. E così cominciano i provini ad alto livello. Attenzione, l'Olympique Marsiglia lo snobba. Lui fa vedere di cosa è capace a Monaco e a Nizza, fino a che sbarca a Auxerre, che è la sua prima squadra. Lui decide di andare a Auxerre, nonostante la città sia molto lontana dalla sua Marsiglia e forse non è neanche il posto più divertente della Francia, ma Eric vuole andare lì, prende la patente e comincia a fare il pendolare con la sua città natale. Perché Auxerre? Perché c'è una donna di mezzo, è la futura moglie, la prima, Isabelle Ferré, da cui avrà due figli. Due anni nelle giovanili e poi il debutto in prima squadra. Mi hanno accolto come un salvatore e questo mi ha stupito tantissimo. Contavano tantissimo su di me. A ogni partita ero io che facevo la differenza. Ma in fin dei conti non l'ho fatta più di tanto. Ci siamo però salvati sulla partita principale e questo ha contato molto. Ha tirato su il morale. Beh, già in quegli anni Eric non è solo un calciatore tutto allenamenti e pallone, ha interessi originali. Dipinge e quando può visita mostre d'arte e fa yoga. È vero, effettivamente è un insieme di fattori che fa la differenza. La mia fidanzata Isabelle, la campagna che mi circonda, la natura, tutto quanto migliora il calcio. Forse Eric cerca quella serenità che non sempre mostra in campo, dove la sua grinta spesso sconfina nella aggressività. Ma siamo ancora lontani dai guai veri e propri. Quelli arriveranno presto e segneranno nel bene e nel male l'intera carriera del genio ribelle. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Eric Cantona, genio e sregolatezza, calciatore di grande talento che ha calcato i campi di calcio e segnato le cronache con gol, assist e intemperanze. L'abbiamo lasciato all'Auxerre ai primi anni da professionista. Lui è giovane, innamorato della sua fidanzata, che allora è Isabelle. Per starle vicino accetta di andare in prestito al Martigues, che è in seconda divisione. È solo a 40 km in fondo da Marsiglia, da casa, e deve sistemare le cose con Isabelle. Due anni e torna all'Auxerre, è l'87, il sistemare le cose di cui parlavo è il matrimonio. Lui si sposa, ma lo annuncia solo a cose fatte, secondo il suo stile, uno stile che sarà negli anni tipico del nostro Cantona. Intanto tira già aria di nazionale e lui, sprezzante, minimizza l'eventualità di una convocazione. Se succederà sarò molto contento, ma per il momento non voglio pensarci. Non è questo che mi fa girare la testa. Al momento non ci voglio pensare. Ma Cantona è troppo forte, il suo gioco si fa notare, la convocazione arriva. Gioca in nazionale, ma dura poco. Il suo lato oscuro fa una prima consistente apparizione. Perché per una volta il CT della nazionale francese Henri Michel non lo convoca. E lui reagisce con questa dichiarazione. Mickey Rourke dice che chi assegna gli Oscar è un sacco di merda. E io non giocherò più nella Francia finché Henri Michel sarà il selezionatore. Punto 1-0 a capo. Cantona è così. Incanta in campo e poi è capace di insultare in diretta televisiva il CT della nazionale. E gli insulti gli costano una delle prime esclusioni importanti. Viene escluso dalle competizioni internazionali, almeno temporaneamente. Ormai Eric si sta facendo una nomea, quella di giocatore problematico, di quelli che creano contrasti forti non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Così inizia un pellegrinaggio tra squadre francesi, tra maglie gettate a terra quando viene sostituito, con scontri in campo più vicini alle arti marziali che al gioco del pallone, risse nello spogliatoio, come nel periodo al Montpellier, con il quale vince sì la Coppa di Francia nell'89, però viene ricordato per le botte date a un compagno piuttosto grosso al quale tira addosso anche le scarpe. Nel settembre del 91 fa un'altra cantonata. In quel periodo gioca col Nîmes. Durante una partita, arrabbiato con l'arbitro, gli lancia addosso il pallone. La Federcalcio francese lo sospende per un mese e lui reagisce definendo i membri della commissione che lo ha squalificato idioti. Li indica uno a uno e dice idiota, idiota, idiota. E la commissione gli aumenta la squalifica a 3 mesi. Allora Cantona annuncia di voler smettere col calcio, lo fa davvero e passa un lungo periodo a dipingere. A convincerlo a tornare è Michel Platini, commissario tecnico della nazionale francese che non vuole privarsi del suo talento. Eric accetta le lusinghe di Platini, però per ricominciare si trasferisce in Inghilterra. Ricomincia ma sempre a modo suo. Intanto siamo nel gennaio del 92, lui ha già 26 anni, che è un'età un po' a rischio per un calciatore con grande classe, con grandi ambizioni. Si va o verso la gloria o verso l'anonimato. Lui fa un provino con lo Sheffield, allenato da Trevor Francis. Gli chiedono di fare un secondo provino e lui si offende. Decide così di firmare con il Leeds, che di provini non gliene ha chiesti, perché non si può chiedere un provino, tantomeno due, a Eric Cantona. A Leeds diventa subito un pilastro della squadra, che quell'anno vince il titolo. Non aspetta nemmeno la fine della stagione successiva e lascia il Leeds per approdare alla sua personale terra promessa. Eric non lo sa ancora, ma il Manchester United, che lo acquista per poco più di 1 milione di sterline, sarà il suo regno per molto tempo. Ne diventerà il re, incoronato dai tifosi, lì vivrà i suoi momenti migliori, indossando una maglia che al Manchester non danno a chiunque, perché è la maglia numero 7, perché è la maglia che è stata prima di tutto del genio e sregolatezza per eccellenza, cioè George Best, che una traccia nel Manchester l'ha segnata. E poi una maglia che più avanti sarà anche di Beckham e poi di Cristiano Ronaldo e oggi di Di Maria. È una maglia molto prestigiosa e lui vive la sua seconda vita calcistica a Manchester, diventa il leader della squadra, trascina i compagni e è osannato dai tifosi. Paolo Condò, giornalista della Gazzetta dello Sport, ricorda così il rapporto tra Cantona e i supporter del Manchester United. Sì, diciamo che la caratteristica per la quale è famoso Cantona è la personalità. Lui ha avuto una personalità da leader che ha portato dalla Francia al Manchester United, che è stato il club della sua carriera, e ha legato tutti i successi di quell'epoca del Manchester United appunto alla sua capacità di leadership, di guidare i compagni con i gol, con l'esempio, con la faccia feroce fatta agli avversari. Insomma, per darti un'idea di quanto Cantona all'interno del macrocosmo, perché è uno dei club più grandi del mondo, del Manchester United, venga amato proprio per questa sua personalità, nello shop del Manchester United a Old Trafford c'è una maglietta che io trovo stupenda ancora adesso, che dice, con la faccia di Cantona, che dice 1966, che come sai è l'unico anno in cui l'Inghilterra, che ha inventato il football, ha vinto il titolo mondiale, quindi per loro il 1966 è l'anno chiave della storia. Ecco, questa maglietta dice 1966, a great year for English football, Eric was born. È molto significativo, io l'ho trovata bellissima. In Inghilterra si contano sulle dita di una mano i non inglesi che vengono amati. E questo è addirittura un francese che è arrogante, strafottente e presuntuoso. Eppure sanno che Eric Cantona a ogni tiro in porta compie una vera e propria opera d'arte e lo adorano. A ogni gol nessun urlo, la palla va a rete, lui si congela, si muove come fosse al rallentatore, apre leggermente le braccia e guarda soddisfatto il pubblico. Eric Cantona è così, è un artista in mezzo al campo. Allora, il momento più bello di tutti. Non è stato un gol. È per forza un gol. No. Sì, ultimo minuto, finale di Coppa d'Inghilterra contro il Liverpool. Beckham tira un calcio d'angolo, il portiere esce e respinge il pugno. La palla rimbalza verso di te, destro al volo, va, dritto in rete. No, è stato un passaggio. Un passaggio? Sì. Oh, mio Dio. A Irwin, contro gli Spurs, sì! Splendido! Sapevo quanto era bravo, sia di sinistro che di destro. Era veloce come un lampo, io ho toccato d'esterno, tutti sorpresi. Lui ha tirato in corsa e il mio cuore ha preso il volo. Un regalo? Sì, quasi un'offerta, al grande dio del calcio. E se avessi sbagliato? Devi fidarti dei tuoi compagni, in ogni caso, altrimenti tutto è perduto. Questo è un dialogo che io conosco a memoria. È un brano del meraviglioso film di Ken Loach, Il mio amico Eric. E quello che parla è proprio Cantona. Tra poco torneremo, ma non con un momento così bello per il nostro protagonista. Il falco e il gabbiano. La storia che vi stiamo raccontando oggi al Falco e il Gabbiano è una storia di sport, ma non solo, perché il protagonista non è solo uno sportivo, un calciatore, è un artista del pallone, ma non solo. Eric Cantona, genio e sregolatezza, ribelle e grintoso, è un pittore, musicista, amante della natura, idolo delle folle inglesi e in particolare di quei tifosi del Manchester United per i quali è il miglior giocatore di sempre ad avere indossato la mitica maglia dello United, peraltro con il numero 7. Cantona non è stato profeta in patria come da proverbio. La parte più brillante della sua carriera l'ha giocata proprio in Inghilterra, non solo per i grandi gol da fuori area, i passaggi smarcanti, gli imperiosi colpi di testa, anche per un episodio che segnerà la carriera di Eric e condizionerà irrimediabilmente il ricordo di questo calciatore nella memoria di tutti. È un momento colto in una famosa fotografia, scattata il 25 gennaio del 1995 al Selhurst Park, stadio casalingo del Crystal Palace. C'è questa foto di quasi 20 anni fa. Nitida, anche se un po' scura. In questa foto ci sono alcune persone sullo sfondo. Nell'inquadratura ne entrano una ventina. Indossano giubbotti pesanti. Qualcuno ha anche il cappello. È il 25 gennaio del 1995. A Londra fa freddo, ma loro ci sono abituati. Per seguire la propria squadra del cuore a bordo campo, domenica dopo domenica, stagione dopo stagione, bisogna essere pronti anche a soffrirlo, il freddo. Importa poco come sono vestiti, a dire il vero. Contano le loro facce. Alcuni hanno la bocca spalancata per la sorpresa. Uno la copre con la mano, come per dire «Oh mio Dio!». Due bambini guardano anche loro. Sembrano non capire quello che sta succedendo. Questo è lo sfondo. In primo piano, invece, c'è un giocatore di calcio. Maglia nera, pantaloncini neri con profili gialli. Giallo è anche il numero della maglia, il numero 7. Un giocatore in volo. Non per un colpo di testa, nemmeno per una rovesciata. Un giocatore in volo. Si libra nell'aria, plastico. La gamba destra è tesa come in un film di Bruce Lee. Un colpo di kung fu, un calcio volante, che si stampa, secco, sul petto di un giovane del pubblico in prima fila. Il tifoso ha le braccia tese. Cerca inutilmente di pararlo quel calcio, ma niente. Preso in pieno dai tacchetti, da una furia inaspettata. Il giocatore in volo. Il giocatore in volo, neanche a dirlo, è il nostro Cantona. Le cose vanno così. Eric reagisce con un calcio allo strattone di un difensore del Crystal Palace, Richard Shaw. L'arbitro estrae il cartellino rosso. Espulsione. I compagni di Cantona protestano, lui si guarda in giro, non reagisce. Si avvia lentamente verso gli spogliatoi, camminando lungo il bordo campo, dove ci sono i cartelloni pubblicitari. Un insulto improvviso dagli spalti. Non si capisce esattamente cosa il tifoso del Crystal Palace, Matthew Simmons, urli a Cantona. Fatto sta che non deve avergli fatto piacere, il nostro se la prende parecchio. Cantona scatta, si scaglia verso Simmons con un vero e proprio calcio di kung fu e lo colpisce al petto. Il gesto di Cantona è una vera e propria rottura di uno schema, non è più una rappresentazione con in campo 22 personaggi in calzoncini e sugli spalti il mondo reale. Quella barriera virtuale, sacra, inviolabile, quella membrana invisibile viene saltata da Eric Cantona, che in qualche modo entra così nella storia. Quel gesto gli costa moltissimo perché viene rinviato a giudizio, il processo diventa un caso mediatico. Arriva una prima condanna a 2 settimane di carcere, poi ridotta in appello a 120 ore di servizio civile. La Federcalcio inglese lo squalifica per 9 mesi. Lui non mostra pentimento, anzi trova il modo di prendersela con qualcuno, coi giornalisti. Convoca una conferenza stampa, affollatissima, tutti si accalcano. I microfoni sono accesi, la luce rossa delle telecamere lampeggia. Lui arriva, si siede, inizia a parlare e intanto sorseggia un bicchiere d'acqua. When the seagulls... Quando i gabbiani seguono il peschereccio, it's because they seen... è perché pensano che sardines delle sardine will be thrown into the... stanno per essere gettate in mare. Thank you very much. Grazie, grazie a tutti. Dice questo, si alza e va via. Resta solo la sua frase, che forse è la più famosa frase mai pronunciata da un calciatore. Una feroce critica verso il mondo dei media, ma anche la sua vendetta personale verso quei gabbiani, i giornalisti pronti a lanciarsi sui suoi errori. Perché Cantona ha anche la cultura e la dialettica per tenere testa a un mondo così duro e spietato. Scompare dalle scene per i 9 mesi di squalifica che userà da par suo per imparare a suonare la tromba. Al suo rientro in campo all'Old Trafford viene accolto così. Today at Old Trafford it's the return of Eric Cantona, the most talented, temperamental and talked about footballer in Britain. Il nostro amico Eric giocherà a calcio ancora un anno solo, perché nel 96 non viene convocato in nazionale all'europeo e decide di lasciare il calcio perché, come dice, vuole occuparsi d'altro. Pensate, ha solo 30 anni. Lascia con una dichiarazione d'amore per i tifosi. Con il Manchester ho giocato il mio miglior calcio. Con voi ho provato il massimo delle emozioni. Finisce l'avventura di Eric nel calcio, ma ne comincerà altre. Allenatore di beach soccer, pittore, ma soprattutto attore. Resta quasi il dubbio che la sua carriera da calciatore sia stata forse condizionata dalla sua personalità, e non solo in positivo. Un giocatore che ha dato tutto quello che aveva, oppure le squalifiche, le punizioni, le sue intemperanze ci hanno tolto qualcosa del Cantona calciatore? Sentiamo cosa ne pensa Paolo Condò, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ma sicuramente la seconda che hai detto, probabilmente se lui fosse stato un monaco guerriero del pallone come tanti altri avrebbe tratto qualche cosa di più, io penso non in Inghilterra ma in Francia e con la Francia, perché Cantona fa parte della generazione che manca ai mondiali, perché la sconfitta lui c'era quando perdono l'ultima partita di qualificazione, il gol di Kostadinov in casa con la Bulgaria e vengono esclusi dal mondiale del 94. Tieni presente che la Francia praticamente passa direttamente dal mondiale 86, quello di Platini, al mondiale che vincono nel 98, perché loro non si qualificano né nel 90 né soprattutto nel 94. Quella del 94 era considerata insomma un must, anche perché era una buona nazionale. Quindi ecco, in quel senso sicuramente a Cantona manca una dimensione per definire la sua carriera una di quelle dei grandissimi del calcio, però la personalità è quello che lui fa dopo, dal cinema alla televisione, ti dimostra che era uno di quei personaggi che non potevi contenere dentro un campo di calcio, ma che avevano appunto questa personalità, una personalità artistica. Io ho sempre considerato il calcio un'arte, magari un'arte povera, ma un'arte, ecco. In questo senso Cantona è stato un artista multimediale, potremmo dire, visto che in diversi campi, anche come attore, io lo trovo di grande talento, per esempio. Ma secondo me è inutile chiedersi cosa sarebbe stato Cantona se non avesse avuto quel carattere, se si fosse allenato, preparato e posto di fronte alla vita diversamente, perché in quel caso non sarebbe stato Eric Cantona e non avrebbe dovuto portare il peso della sua amatissima leggenda. Beh, il cinema in qualche modo ha ridato Cantona ai suoi tifosi. La carriera di Eric continua ancora oggi ed è attore in molte pellicole, sempre di qualità, perché non sceglie film di cassetta o film semplici. L'ultima, per esempio, è un western, The Salvation, e lui fa il cattivo, ovviamente, un fuorilegge di quelli tosti, sporchi e violenti. Ma di certo i tifosi dei Red Devils hanno trovato in pieno il loro idolo grazie a un film capolavoro del 2009 firmato dal grande Ken Loach, che gli chiede di interpretare se stesso in Looking for Eric, arrivato in Italia con il titolo Il mio amico Eric. Il protagonista è un postino omonimo del campione di cui è tifosissimo, un postino a cui Cantona apparirà dal nulla per aiutarlo a risolvere le sue rogne quotidiane. Sei tu veramente? Sì. Allora di qualcosa in francese. Ben, je suis Eric Cantona. Porca troia, sei tu. Cazzo, è impossibile. Aspetta che questa cosa vengano a sapere i ragazzi. Loro ancora ti adorano. Nel film Cantona è una sorta di mentore con il quale Eric il postino dialoga sul filo dei ricordi calcistici delle sue gesta. C'è un momento bellissimo del film in cui il postino dice: ma un uomo farebbe così? E Cantona lo guarda quasi stupito, meravigliato, e dice: ma io non sono un uomo, io sono Eric Cantona. Il campione rappresenta l'aspetto epico del calcio e il senso che questo sport ha per tutti gli appassionati. Ti ricordi il Sunderland? Ah, che cosa meravigliosa, magnifique, una specie di balletto, una danza. Mi ha fatto tirare avanti per mesi quel gol. Scusa, tra due difensori, McClure, ora Cantona, la mette dentro! Un gol straordinario di Cantona! Una cosa che ti riempie così tanto che per qualche ora riesci a scordare la tua vita di merda. Però è incredibile come cosa, vero? 60.000 persone che ti guardano, applaudono, gridano il tuo nome. Fa paura. Tu avevi paura? Sì. Ma quando mai? Paura che potesse finire. Mi piaceva sorprendere gli spettatori. Ogni volta, in ogni partita, io cercavo di fargli un regalo. Qualche volta non mi riusciva, ma quando succedeva... ci rimaneva dentro per sempre. Sì. Ma prima dovevo riuscire a sorprendere me stesso, accettare il rischio. Sai, dipende dai limiti che scegli di porti. Giochi sul sicuro? Nessun rischio. Capito? E vabbè, cosa dire? Dipende dai limiti che scegli di porti. Oggi Cantona è un personaggio inserito nel suo tempo, non un calciatore in disuso come tanti a fine carriera, lontani dai fasti passati. Lui con il calcio non ha più a che fare, però è ancora seguito, è un leader. Vive in Camargue con la moglie attuale, l'attrice Rachida Brakni, di 10 anni più giovane. Pochi anni fa il video di una sua intervista dal vago sapore no global, antisistema, ha provocato una vera ondata attraverso il web. Nell'intervista Eric ipotizza la sua rivoluzione non violenta, indica le banche come bersaglio di campagne di boicottaggio, prendendo anche in giro i sindacati, a cui dice bisogna ogni tanto dare qualche buon consiglio. Non credo si possa essere completamente contenti vedendo la miseria intorno a noi, a meno che non si viva in un guscio. Ma allora c'è una possibilità, si può fare qualcosa. Mi infastidiscono un po' quelli che vanno a... cioè, non mi infastidiscono, ma penso che sia importante difendere la propria ragione. Ma al giorno d'oggi che cosa serve scendere in strada? Andare a manifestare. Non dobbiamo impugnare le armi, uccidere la gente, fare la rivoluzione. La vera rivoluzione oggi è molto semplice da fare. Il sistema gira intorno alle banche, si fonda sul loro potere. Quindi deve essere distrutto proprio partendo dalle banche. Se 3 milioni di persone, invece di scendere in strada con i loro cartelloni, andassero in banca e ritirassero tutti i loro soldi, queste crollerebbero. Prima 3 milioni, poi 10 milioni di persone e le banche crollano. Ecco la vera minaccia, la vera rivoluzione. Si fa in banca, non è difficile. Se tanta gente ritira il proprio denaro, il sistema crolla. Nessuna arma, niente sangue, niente del genere. E in un caso del genere ci ascolterebbero in modo diverso. Ai sindacati bisogna propor loro delle idee a volte. Beh, interessante che su Radio 24 si ascolti Cantona che parla delle banche in questi termini. Chissà cosa ne penserebbero i nostri economisti e i nostri esperti. Ma comunque questa è la storia di Eric Cantona, che è un calciatore anomalo. È un uomo speciale, un genio ribelle. Di storie come la sua ce ne sono tante e noi ve le racconteremo in trasmissione. Intanto aspettiamo i vostri commenti, i vostri suggerimenti, le vostre segnalazioni sulla mail ilfalcoilgabbiano@radio24.it oppure su Twitter, su Facebook. Insomma, se mi cercate mi trovate. A domani.